diretta dalla stazione spaziale. Va ora in onda Opencast Alfa, puntata numero 39. Apiti Get East Upgrade. Call me a loser, gonna break the break phone, the break phone, right. You can feel what is stolen comes undone. Just to steal. Complimenti a tutti i pianisti, perché non è facile. Io non è che volevo dire, ma non c'era il piano. Invece c'era, ma non è facile sentirlo. Perché non era attaccato all'amplificatore, non entrava dentro. No, beh, no, era un piano forte a coda, acustico, però senza microfono. E che cacchio. Ma suonava l'ambiente così, bisogna sentirlo. Loro erano i Fly Paper for Freaks col brano The Brick Fall. Che musica che mettiamo. Vero? Manco com'è fosse che musica? Com'è? Com'è? Che mettiamo? Ah, che mettiamo? Mettiamo. Che, aspetta, no. Che musica che mettiamo? Non siamo in stereo, Va bene. Puntata numero 39, Opencast Alpha, il podcast tecnologico idiota del GL Como. E non ho capito perché a me tocca la parte idiota. Io hai detto, quando ci siamo messi d'accordo, io. Maledizione. Scusate il ritardo. Il ritardo, sei arrivato tardi? No, il ritardo perché è l'ultima puntata. E risale a diverso tempo fa. Svariati millenni. Correva l'anno. Ieri. Diverso tempo fa. Diciamo che era ancora aprile quando. Porca. Un mese. Vabbè. Un mese qualcosa. Scusate, ma stavamo preparando delle cose importantissime. No, stavamo aspettando, esatto, che succedesse qualcosa che valesse la pena raccontare. 3, 2, 1. È partito il razzo. Certo. Cosa è successo allora nel frattempo? È partito il razzo. Nel frattempo è partito il razzo che ha portato Debian nello spazio. No, esattamente, ha portato un italiano, un parmigiano reggiano. No, è siciliano lui. Ma si chiama parmitano. È falso anche. Sei un pirla, per cui ha detto che era parte da pirla. Maledizio. Quindi la nostra simpatica amica Damian, che nel frattempo ha anche deciso di rilasciare la nuova versione, che già di per sé è un evento storico, che avremmo voluto seguire in diretta per voi, ma problemi tecnici nell'aggiornamento ce l'hanno impedito. Stavo aggiornando Arch Linux, che cazzo vuoi? Perché non ti trovavamo. Parlavi che stava aggiornando Gentoo. Stavo emergendo. Esatto. Quindi sei stato via per molto più tempo. No, io distribuisco. Sì, sì, certo. Sì, ho dei tu, il tuo portatile, l'efica. Ho dei portatili su per la navicella spaziale che mi compilano. Poi ti faccio un... Adesso, dopo fuori onda, prova. Ti faccio un discorsetto su come tenere il microfono. Ho già visto che mi guardavi male. Vabbè. Nel frattempo, dicevamo... Nel frattempo la NASA ha deciso di adottare Debian come sistema operativo su tutti i portatili a disposizione della Stazione Spaziale Internazionale. Per farle girare su Facebook. Fondamentalmente sì. E che vanno anche su Twitter. Fanno lo stream video. Registrano video musicali. Pensa. Un'ora sola. Comunque se vi interessa, c'è il sito della NASA che riporta in tempo reale tutto quello che accade sulla Stazione Spaziale Internazionale. C'è sia lo stream video, che purtroppo quando ho provato stasera dava blu, per cui qualcuno secondo me ha staccato il cavo dal videoregistratore, perché era il classico blu dal videoregistratore. No, proprio sai quando il videoregistratore senza l'antenna che dava blu, ecco quella cosa lì. Ma si anche parla l'app. Del 1900 e qualcosa. Ma c'è anche l'app, ho sentito. Ho sentito dire, ma non usando app. Se posso sei dire. Vecchio. Però in compenso c'è la timeline degli astronauti, ovvero sia tutto sono quello vivi, che sono vivi, che stanno sono facendo e che cosa hanno in programma di fare. Morto. Beh sì, quando arriva una riga nera, perché c'è, non so, marrone, eh sì, è un momento intimo, poi c'è rosa, stanno facendo degli esperimenti, giallo, stanno mangiando, Kernel panic. Niente, stanno dormendo, se è nero, esatto, no, vabbè. Comunque hanno tolto Windows e hanno messo Debian. Sì, perché è molto più facile da mantenere e gestire. Esatto. Detto. Sì, ma avranno messo la 7, la 6, la 5. Che versione avranno messo? Non era specificato. Non era specificato. Secondo me ha messo la 6. La 3. Ma la 3 o giù di lì potrebbe essere stata la prima volta che Debian è stata nello spazio. Che invece è stata. Non nel... è questa la prima? No, è stato nel 1997. Su un esperimento sullo Space Shuttle. Compilazione in assenza di gravità. Più o meno. Invece ho sentito stasera, mentre venivo qua a registrare, per cui correva il giorno giovedì 30 maggio, tanto per dare un'idea dei tempi che trascorrono tra la registrazione quando la mettiamo online. Domani settimane in onda. Settimane e settimane. Domani in onda. La puntata di Caterpillar di questa sera ha intervistato il... Palmiro Togliatti. Sarebbe stato difficile. Sarebbe stato interessante. Sì, soprattutto sì. Rispondi, rispondi! Col mago tema che fa da medium. Esatto. No, divino. È stato il past project leader di Debian, che tu, mi ricordi si chiama Stefano Zacchiroli. Esatto, grazie, c'ho una memoria per i nomi che è oscena. Mi come ricordo, mi chiamo? Chi? Io. Tu chi? Cazzo. Ok. Tu sei Coso, no? Coso. Esatto. Esatto. L'hanno intervistato appunto su Debian, utili il software libero in generale utilizzato sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ma hanno detto ancora che Debian è il sistema operativo italiano? No, hanno detto nel software della Stazione Spaziale c'è una percentuale di Italia, nel senso che comunque il progetto comunitario comprende anche italiani. Zacchiroli è stato molto, ovviamente molto giusto nel dare A Debian ciò che di Debian. Esattamente. No, è stata una bella intervista, mi è piaciuta. Cacchio, allora me la scaricherò, la metterò facciamo pubblicità così anche a Rai 2. Caterpillar. Esatto. E niente, voi avete festeggiato l'uscita di Debian 7? Noi abbiamo festeggiato l'uscita di Debian 7. Siamo andati a mangiare con i debianari. Mi sembra giusto. Ma anche tu c'eri. Anch'io c'ero. Ma eravate in incognito. Ma la mia era una domanda generica, nel senso voi adesso, lei era qui e ha risposto, ma voi anche ascoltatori di Open. Signora Gianna, che è sull'autobus con la spesa e ci sta ascoltando. Beh, io non l'ascolto mica sta roba. Signora, deve smettere di fumare però. E allora, ho iniziato con la sigaretta elettronica ieri. Mi hanno fatto l'aggiornamento e ancora non funziona. Crivio. Sento una leggera nota polemica. No, no, è così. Vabbè, comunque siamo andati a festeggiare noi del GL Como, il Lifo. Passato. C'era dentro anche gente di Milano, Saronno. Chi è che c'era? Linus Mar. Ok. C'era un imboscato, esatto, di Milano che non sappiamo esattamente. Vabbè, ci siamo trovati lì. Comunque vi ricordo www.gl-com.it, la pagina inerente a questa puntata di Opencast. Lasciateci nei commenti come avete festeggiato il rilascio di Debian 7, il cui nome in codice mi ricordi essere Fuizi. Avrei detto Fufi. No, quello probabilmente quando arrivano alla 10-12. Insomma, vabbè, finiranno i nomi di Toy Story un giorno. Comunque io ho aspettato. Faranno uscire un nuovo Toy Story. Secondo me sì, perché apposta. Nel frattempo ne è uscito. Io comunque ho aspettato gli amici che... Gli amici di Maria. Esatto, che aggiornassero i loro sistemi prima di mettermi a fare a petit dist upgrade. Si sa mai. No, io non l'ho ancora fatto. È facile così. Però no, su c'ho un serverino. Ma sul serverino non mi ha dato problemi. Sul NAS non mi ha dato problemi. Dici che sui desktop. Dici un che posso po'. Fare un dist upgrade sulla mia macchina virtuale? Sì, vale sì la pena. Ma cos'è che c'è su? C'è cosa? X? No, no, è un server. Ok, no problem. I miei problemi sono stati. Tanto il backup ce l'ho. Gnom. Games Data, Java e un paio di librerie. Beh, direi che è abbastanza roba che può anche non servire. Sì, sul server. No, anche sul desktop. Ho capito. Soprattutto sul desktop. Soprattutto Java. Su LXDE. Però, vabbè. Io direi che è bella la base. Ti piace la base? Sì. È sempre quella. L'ho sentita stasera per la prima volta. E le cuffie fanno questo effetto. Abbiamo avuto un avanzamento tecnologico. Le cuffie. Le cuffie. Bene, io andrei a fare una pausetta musicale. Andiamo in bagno. Andiamo in bagno, facciamo quello che dobbiamo fare. Intanto scaldiamo i popcorn. E ci vediamo qui fra un. No! Vado a prenderli. 4-5 minuti. Ok. Una cosa così. Loro sono The Twins e il pezzo è She's Disappeared Again. Plus plus. Perché c'è scritto così. Non è che me l'hai invento. When she walks by a deer in Walmart, she's looking like a fashion of every night. Then she stops her striking commotion. She's picking up that when she suddenly left. When she talks by a deer in Walmart, I ain't got time to get lost in her mind. Still she's the devil of rap. For the space and time. She don't care for my position. She said it all four times. She likes to be in a movement. She'll see me another time. Cause I hear my voice too clever. I hear my voice too cold. I hear my voice as a thousand whispers. And it only goes to show. Turn up the sound, holy Moses. She's taking me forward and she's taking me down. She don't care for my position. it only costs to show. Turn up the sound, holy Moses, I'm breaking the ground. I'm done with the street and the bus and the voices in town. I'm stuck in the brutal relapse of a tangerine eye. But I'm alone. Siete cercata, eh? Non l'ho trovata. Cosa? Quella che ho cercato. Ma l'hai cercata bene? Eh sì, ho messo questa canzone alla fine perché l'altra non l'ho trovata. The Twins, She's Disappeared Again, su Opencast Alpha, il podcast tecnologico disimpegnato del gruppo Linux Como. Però era carina questa musichetta. Era carina? Sì, carina. Stavo per dare i contatti dell'Opencast, ma mi è venuto in mente, così, d'amore, che non abbiamo dei contatti. No, che avevamo dei contatti, cioè, a parte il sito www.gl.com.it, avevamo anche dei contatti su Identica. Ma avevamo... Però domani... Cosa è successo? E domani Identica cambia software, passa da StatusNet al nuovo progetto... La cosa mi preoccupa. Pampio.io. Ah, Pampio. Sì, esatto. Vabbè. E quindi non si sa come andrà a finire questa cosa. Siamo. Vabbè. Saremo. Ma noi rimarremo sui social network distribuiti. Certo, certo. Adesso ci organizziamo, sì, con calma. Sì, vabbè. Sono 3 mesi che ci dobbiamo organizzare. No, no, ma lo facciamo, lo facciamo. Sì, ok. Quando saremo pronti, con come calma. Debian. Allora, cioè, voglio dire, Debian, quanto tempo ci ha messo a rilasciarla? 7? Allora, facciamo una cosa. Voi ascoltatori, potevano aspettare anche un po' di più. Ancora? Non sarebbe partito il razzo se avessero aspettato ancora. Vabbè, comunque, ascoltatori, ci troviamo tutti sotto casa di Fabrix a picchiarlo finché non ci mette sui social network distribuiti. Tutti sotto casa mia? Sì. Va bene, ditemi che giorno, però, che almeno vedo di esserci. Non ti preoccupare, ti aspettiamo. Va bene. Nel frattempo, noi si stava pensando a quali altre cose mirabolanti sono successe. Nell'ultimo mese. Nell'ultimo mese, perché è un po' che non ci vediamo. E... Ne dico io una. Vai. Firefox OS. Firefox OS. Sono stati messi in vendita Di cosa? Scusate, stavo facendo una foto. Ma non era un dipinto a olio? Sì, infatti ci vorrà un Mettila po'. Sulle dispositive. Sulle slide. Sulle slide. Abbiamo delle slide. Aspetta, scusa un attimo. Aspetta, mettiamo la slide. Facciamo vedere la foto. Pronti? Allora, ve la siete cercata, E un allora, po' sì. La prossima volta cercate delle altre open radio, va bene? Oh. Basta. Il cane che russa. È lì, cioè mette la registrazione quando in realtà lei è già entra nel microfono. Sono stati messi in vendita, dicevamo, sì, device di, diciamo, di sviluppo per, allora, sviluppatori. Cos'è Firefox OS? È un sistema operativo basato su HTML5, prodotto da Mozilla Foundation, su questi telefonini del caso. Diciamo le cose come stanno: 150 euro di telefonino con una webcam, processore a farfolle. Cioè, non è che spendono tutti 600 euro come te per una cagata. Su dei telefonini però, che finalmente sono acquistabili. Esatto. No, perché? No, allora, l'idea è che i telefonini siano acquistabili. Poi il fatto che adesso siano acquistabili è diverso. Esatto. Che sarebbero acquistabili a quel prezzo. Sono se carini. Fossero acquistabili. Sono due versioni, uno da 99 euro, uno da 150. Esatto. Stiamo comunque parlando dei device di sviluppo. Esatto, ancora. Sì. Carini, anche le foto, cioè, sono stati belli. Messi in vendita, sono andati via nel giro di 4 ore, il primo stock è andato. Sì. E nel giro di altre 4 ore, dopo una settimana hanno messo il secondo lotto. Stock è andato dopo anche quello. E al momento chi ce l'ha è fortunato, chi non ce l'ha rosica. Rosica un po'. Io rosico. Io rosico, sì. Si rosica devo in dire. Compagnia. Si rosica. Notizia... Vabbè, tutto un sistema operativo su HTML5. Notizia dell'altro giorno invece che Firefox, la Mozilla Foundation, sta facendo degli accordi con Foxconn per produrre un nuovo device che probabilmente sarà un tablet. Quindi ci si aspetta un tablet cinese con Firefox OS venduto su un altro sito di un'altra nazionalità. Ma che capace, sarà bloccato capace, in due secondi, capace di arrivare tranquillamente al Bennett, per dire. Sì, ok. Quando come uscirà probabilmente inizieranno anche i televisori. Probabile. Cioè, aspetta a comprarlo tu, Giovanna. Ma io non aspetta. Voglio il tablet, voglio il telefono. Non il televisore? No. È comodo il televisore. Ma telefonarci è scomodo, no? E beh, pronto? Sì! Non mi riesco a immaginare la gente appoggiata al televisore. No, più che altro non mi immagino a portarlo in giro. Dice, bello quel telefonino da 32 pollici. Con le rotelle. E HTML5, la prolunga. Mica pizza e fichi. Potrei sempre tenerlo nella mia borsetta. Quello esatto. È cioè, per carità, tutto. Vabbè, comunque non vediamo l'ora di vedere questi dispositivi in HTML5. Ricordiamo che, per esempio, molti giochi che sono usciti ultimamente per device mobile sono scritti in HTML5, come Angry Bird, per esempio. Quello è il top del mondo dei giochi stupidi in HTML5. Va bene. Beh, me lo segno. Dobbiamo dire cosa ci si fa con HTML5. Ancora è un limbo. Siti web. Applicazioni web. Come secondo fai te a fare la gente un sistema operativo? Tablet. Ma il tablet. Ma è quello che mi preoccupa. Il tablet la vedo un po'. Beh, però. Ah, sì, Angry Bird sul tablet si gioca bene. No, ma stavo pensando anche a Firefox OS. Perché nel frattempo, se volete vedere com'è, potete scaricarvi l'estensione per Firefox, che fondamentalmente è l'emulatore per lo sviluppo. Permette di utilizzare l'interfaccia sul PC attraverso il mouse, come i normali simulatori, emulatori per i telefonini, per Android, diciamo. E di installare le applicazioni web che state sviluppando per testarle direttamente sul device. Ma a proposito di device, parliamo di cose. Parliamo un po' di più... installare, del fatto che è uscito Debian, che adesso abbiamo comprato tutti il portatile bello figo nuovo e vogliamo installarci Debian. Avete comprato il portatile nuovo e c'è una brutta etichetta con su scritto Windows 8. cosa succede? Me ne sono accorto. Non li freghi. Capito. Vabbè. Cosa succede? Che la Microsoft ha deciso che per fare un favore agli utenti i portatili si devono accendere velocissimamente. Velocissimamente, quindi non fanno neanche finta di guardare se ha un CD, una chiavetta USB che fa il boot, eccetera, eccetera. E quindi, per esempio, se volete installarvi Linux senza accettare la licenza Windows, è fondamentalmente impossibile. Allora, ve la siete cercata, eh? Eh beh. Siete comprati voi il computer? Un po' sì, A meno di aprire il computer, staccare fisicamente l'hard disk e rifare il boot. Se non è saldato. Se non è saldato. Perché potrebbe anche essere saldato. Aprendolo e tirando via l'hard disk. Forse. La garanzia va a mignotte. Ah, così. Sì, c'è scritto proprio così. C'è una clausola che parla di mignot. In inglese. C'è l'etichetta sullo sportellino. If you remove it, your guarantee go to mignot. È scritto in inglese. In inglese, cioè, non capisco. Esattamente. E quindi ci sono soluzioni a questo problema, non a quello di andare a mignot, voglio dire, a quello. Cazzo. È una variante ma non è una soluzione. Ovvero? La possibilità è, per esempio, di trovare, ma qui spesso non è documentato, se ci sono combinazioni di tasti per entrare nella configurazione. Immagino problema a caso. Se si ha la tastiera, esatto. USB, non è detto che la tastiera funzioni. Perché un altro problema è che non caricava neanche i driver per la tastiera USB. Sì, non viene fatta l'inizializzazione del controller. Fondamentalmente, per cui non... E quindi c'è la gente che cerca di infilare la tastiera PS2 da qualche parte. Quindi io suppongo che voi che ci ascoltate siete già al corrente della fazenda. Però io fossi in voi non comprerei un computer nuovo. Se riuscite a non comprare un computer senza, oppure wifi, provate a vedere se c'è ancora un modello vecchio che, esatto, non è Windows 8. Oppure cercate su internet se qualcuno ha avuto lo stesso problema, sì, che può dire questo modello. Ma c'era la possibilità anche di mantenere il BIOS vecchio. Nel senso, se c'era puoi la... entrare in configurazione dopo aver accettato la licenza di Windows, esatto, puoi chiedere di fare il reboot lento e a quel punto puoi installare quello che vuoi, però devi accettare la licenza. Gli venisse questa cosa è particolare, diciamo una fregatura, sì, per dirla bene, perché diciamo che tutti i computer d'ora in poi saranno venduti con Windows 8 e Windows avrà il 100% dei computer sul sì, ma e diranno anche dopodiché detto. Tu pensa, loro poi conteranno anche le licenze attivate, sì, e diranno guardate, ciao, quante ne abbiamo vendute. In realtà, secondo me, poi Debian non esiste. E in effetti uno potrebbe andare anche a cercarsi un computer con già Linux preinstallato. Sì. Sono pochi, ma ci sono. Sì, ci sono. Difficile trovarli in Italia. No. Non vorrei fare pubblicità, ma c'è una grande distribuzione. Sì, inizia per N e finisce per Ext. Oh, cazzo. Vabbè, comunque, che vende anche i sistemi con FreeDOS. Beh, comunque si trovano Samsung e FreeDOS non ti chiede di accettare la licenza. No, non ne sono sicuro. Non penso. Almeno la... Però pensa che bello poter scrivere dir. Vedere un bel prompt che dice C2 punti, punti maggiore. Esatto. Cazzo. Far partire edit.exe. Che fortuna che hai. Altrimenti so che esistono dei negozietti di informatica sotto casa dove ti installano, guarda, Linux. Quello sul... sotto casa qui non vende computer. Altra roba, polverine. Ma non io computer. Ne ho trovati, sono rari. Oh, vergogna, ci sono. Vergogna. Va bene, ti passerò ai vicini. Io farei un'ulteriore interruzione musicale con un altro bel brano che abbiamo trovato su Giamendo. Vi ricordo che tutti i brani sono in licenza Creative Commons, disponibili a scaricare, a ascoltare. come questa puntata, credo, come che sia anche questa puntata, questa, per cui scaricate, scaricate, scaricate. E adesso sentiamo un brano, un brano uno che tratta la tematica del pene e della vagina, che è un tema sempre attuale. Glielo dirò a tua mamma che dici ste cose. Sono Angelina Giolitti e anche io ascolto Open Cast Alpha. No, no, non va bene. Come no? Cioè, siamo tornati da Fuck Like an Animal. Loro erano Brick the Bands con il brano Fuck Like the Animal. Like an Animal, scusa. Dall'album? Dall'album? Oh, ok, ok. Ah, vero, ok, ok. Okay, okay. Oh, oh, oh. No, no, ok, ok. Oh, oh, oh. Oh, oh. Grande musica Open Cast Alpha, il podcast così tecno rincoglionito del GL Co. Disinvolto, brillante. No, no, rincoglionito. No, no, no. Diciamo, il le podcast cose un po' così a chiocciola. A chiocciola del GL Co. Va bene, ne saremo tutti molto fieri di partecipare. Fierissimo. A questa cosa. La nel frattempo è andata in Giappone pur di non fare più le puntate. C'è gente che ha deciso di scappare. Sì, sì, sì. C'è sì. Gente che non si fa più sentire. Esatto. Piiip. Fa così. Piiip. Ah, no, pensavo fosse più il tu tu tu tu tu. Quello. Ciao, sono io. Lascia stare, poi ti faremo un podcast apposta solo per te dove canti. Yeah. Va bene, nel frattempo, in questo mese che non ci siamo sentiti, oltre a Debian, lo spazio, i portatili con UEFI, quelli già un po' che erano in giro, ma vabbè, e via discorrendo. Ce l'ho, ce l'ho. Vai. LibreOffice. Oh, LibreOffice. Mi sembra che ne avevamo già parlato nella scorsa puntata. Sì, ma non funzionava. Aspetta che facciamo un riassunto. Allora, cosa nella succede? Nella puntata precedente. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, eh. Aspetta. Aspetta. Nella puntata precedente di Opencast Alpha, LibreOffice ha deciso di rilasciare una versione per Android e ha cominciato a rilasciare dei pacchetti di testing da installare per vedere le funzionalità. Dai, cacchio, compila, compila! Fino al mese scorso, tutto quello che si riusciva ad avere era dello spazio occupato su disco. Ma oggi... Ma che parte? Parte, quindi funziona. Allora, le app sono, cioè i file APK da installare sono 3. Non ho esattamente capito perché. Allora, uno ti fa vedere in una cartella della SD i file di OpenOffice e di LibreOffice che sono ODT, ODS, che sono presenti con l'icona. Okay, ma quando vai a cliccare, nulla. Nulla. Okay. Però poi c'è la possibilità di far partire quest'altra applicazione che in realtà ti apre il writer. Quindi no, si apre il writer? Si apre. Quindi inutilizzabile. Abbiamo... Vabbè, Però c'è stato un avanzamento. Si sì, apre sì, l'interfaccia. Sì, sì. Io credo che sia un'immagine. Che sono ancora... No, i menu si aprono. Magari si è un'immagine aprono. Con dei menu. Però i menu si aprono. Poi. E basta. Crescia. Quindi sul tuo fantastico sistema da 800 euro con... erano 600 prima dalla televendita. Inflazione, inflazione. Nel tuo fantastico telefono sì. da 850 euro compreso di estensione tablet e tastierina ancora crescia. Non riesci a utilizzare OpenOffice. No, però ci speravi un po', eh? No, vabbè, ma da qui a un mese Vedremo la prossima puntata di voglia. Ma se funziona da subito dov'è il divertimento? Infatti. Esatto. Quindi cioè... direi, scusami, la suspense. Che cosa succederà? Riuscirà il nostro Tullio a far partire LibreOffice sul suo tablet telefono da 900 euro? Lo sapremo nella prossima puntata di Opencast e LibreOffice, solo su www.glcomo.it. La cosa un po' mi preoccupa. Nella prossima puntata vedremo gli sviluppi, quindi io finché non mi chiami Carmen o Consuelo sono tranquillo. Vuoi bere qualcosa? Bevi qualcosa. Ciao. Va bene. Vabbè, comunque l'icona e tutto il resto sono fatte bene. Speriamo che anche il programma migliori. Secondo me ora che finiscono OpenOffice su Android, Android un pochino ha perso il suo sex appeal. Uscirà Firefox OS, per esempio, per cui dovranno scrivere in HTML5 e di nuovo da capo. È tutto scritto in Java, credo. Quello sì. Cribio. LibreOffice non è scritto in Java. Di che cosa è scritto? C++. E trasformalo in HTML5. È un po' lungo, non si può fare. Comunque, piccola notizia latere. La Pash Foundation, che aveva ricevuto in dono l'OpenOffice, che è la variante di Oracle, aveva in programma di farne una versione web. Sì, ma non si è più sentito niente. Come al solito. Con la storia del cloud, menate varie. Esatto. Sì, come Office alla fine. Sì, fondamentalmente sì. Non sarebbe un... cioè, un male. Sarebbe un'alternativa. Sì, ma... Però... Tu lavoreresti sui tuoi file, con i tuoi dati sul mio server. E non so se farebbero una cosa del genere. Se lo fanno con OpenOffice dovresti potertelo installare anche tu. Sì, se no non è più OpenOffice, è un altro progetto. È come compilare OpenOffice dal sorgente. Quanto tempo ti ci vuole per sistemare il sorgente in modo che ti si compili? Ma quello è un altro discorso. Di sicuro non prendono il sorgente di OpenOffice per fare l'applicazione web. Sì. E soprattutto non lo faccio io, lo fa la mia distribuzione. Primo. Tu hai una perché distribuzione. La mia distribuzione è differente. La compilo io. Esatto. Mi chiavica. Comunque, se ti interessa, sì, dimmi. Esisteva c'era un tizio che aveva fatto un sistema. Forse ne avevamo parlato Opencast. Igor aveva fatto tutto un setup dove praticamente aveva creato un wiki che era editabile con OpenOffice sul desktop. Fondamentalmente veniva mantenuti sul server i file ODT, cioè sul server girava OpenOffice che convertiva in HTML per visualizzare le pagine. Quando chiedevi una modifica, fondamentalmente ti arrivava un link al webdav del file ODT e lo modificavi. Era un sistema un po' strano, ma funzionava. Avevo provato a metterlo in piedi, funzionava. Sì. Non lo so, ancora io sto cloud non mi piace. Ma a me, guarda, finché sta sul mio server, sì. Sì, è quello il problema, nel senso, anche... No, la verità, quello che ci vorrebbe che manca è la federazione, l'interoperabilità tra le varie applicazioni. È quello che mi frega, perché in questo momento fondamentalmente ognuno fa quel che vuole. Fa quello che vuole, devi essere sulle loro macchine, i dati sulla loro sono rete. Solo loro, non puoi. Cioè, no, il discorso torna un po'. No. Se arriva già per esempio con un cloud, per esempio, che puoi installarti sulla tua macchina e discorrendo, già riesci a avere un'interfaccia web un pochino più carina. Un'altra notizia, parlando di dati e di cosa ne viene fatto con i dati, di qualche giorno fa, di qualche settimana fa, la notizia che l'attacco che c'è stato a Google, ai suoi server, da parte di, si dice, di hacker cinesi e menate varie, era principalmente rivolta a scoprire quali account erano controllati dalla CIA e dai servizi segreti di loro attivisti. Attivisti della CIA? No, attivisti cinesi che avevano account su Gmail che venivano controllati dalla CIA. Ah, controllati non nel senso controllati per essere sicuri, per esempio, tu forse sei una spia. E allora ho capito. Si dice che ci siano delle persone che hanno questi problemi nel mondo, come te per esempio. No, ne ho altri. Tanti Parlando sempre di Google, ma sotto aspetti totalmente differenti, il Google Cloud Engine, la piattaforma di cloud nel senso di infrastructure as a service, ha adottato Debian come immagine di default. Ma la 7? Debian in generale, comunque hanno anche la 7 che attualmente è stable. Ma quindi comunque avranno dei repo. Scusa, ma anche, anche il mio sistema di cloud ultimamente usa Debian. Sì, c'ho un computer in ufficio dove c'è installato VirtualBox con Debian. E l'interfaccia in PHP per VirtualBox. Il mio sistema di cloud, che cosa vuoi dalla mia vita? Con Debian. Sì. 7. Sì. Bravo. No, veramente una allora, non ho ancora trovato un'immagine già fatta di Debian 7 che mi stia dentro. Simpatica. Pensavo dentro. Puoi aggiornare la 6? Sì, potrei farlo, effettivamente, ma non ci voglio. E Debian, gli aggiornamenti funzionano. Lo so. In questi giorni sto giocando con la compilazione distribuita col cross compile, quindi compilami. Tanto non riuscirai mai a far girare Gentoo sulle fica, diciamo. No, ma allora girare gira. È partire che non parte. Non butta. Quindi che cazzo gira? Scusa. Vabbè, gira. Gira il mondo, gira. Compila. Sembra che più girare fa girare. Ma compila, ha compilato, ha fatto le sue cose. È proprio quel cavolo di sistema di boot dell'Efica che mi è odioso. Cos'è? Oh, magari Ubuntu. Infatti. Sì, sì, dopo passo tu Ubuntu. Tu boot. Va bene, abbiamo raggiunto un minotaggio, direi. Quanto siamo? Sufficiente, abbiamo ormai raggiunto i tre quarti d'ora. E basta, avete rotto. Fai di base. Noi vi abbiamo detto quello che ci sentivamo di dirvi, di quello che è successo di interessante questo mese. Se ci siamo dimenticati di qualcosa, avvisateci su www.gl-como.it. Lasciateci commenti se sono insulti anche, ma anche i 5 euro nuovi proposte, sì, ci lasciate proprio le appiccicate sullo schermo esatto. Ma se felici. Volete darci le vostre coordinate bancarie per farvi darvi pagare dei soldi, aspetta. No. Allora non hai capito come funziona, io lavoro qui e possono darci il loro numero di PostePay per esempio, ecco, se volete lasciare nei commenti ancora non funziona. Va bene. Se volete mandare una simpatica letterina con un assegno in bianco, va bene. Anche. Firmatelo, esempio. Firmatelo però. Tanto va bene perché l'indirizzo è a casa mia, per cui va bene. Che dire? Lasciateci almeno un commento, fateci sentire che ci siete, che non stiamo parlando nel vuoto. Aspetta. Sì, chi è? Commento. Ah, buonasera signor commento. Sa che era un po' che la stavamo cercando e non la trovavamo. Guardi, ero in giro. Sì, era su altri siti. No, ero nello spazio. Nello spazio? E cosa commentava nello spazio? Grub. Grub. Sì. Non ho capito come funzionava. Ho schiacciato i bottoni e poi non è partito più nulla. Va bene. Tutto nero. Ringraziamo il signor Commento, ringraziamo voi che ci ascoltate e ci supportate, ringraziamo gli amici di linuxbird.org a cui abbiamo fregato qualche notizia stasera così en passant. Quella su Debian. Sì. Quella su Debian, esattamente. Noi vi lasciamo con un ultimo brano, un pezzo anche questo da Giamendo, dei Great White Buffalo. Questa sera la musica spaccava. Spaccava un casino. E il brano si intitola Likely Story. E noi vi invitiamo ad andare a cercare su Giamendo musica che vi aggrada e che vi possa portare gioia e a rispondere al questionario. C'è un questionario, sì, i signori di Giamendo hanno appena indetto un questionario, sì. Che certo, magari devi aver usato un po' il sito per rispondere, però... ma non ne sono sicuro. Va bene, saluti a tutti a casa, alla famiglia, tutti quanti. Ciao, tutti bene. Ciao, compilate, eh? Ciao. Ciao. E non aggiornate troppo. Non mi ricordo un accordo di questa canzone. Ok, l'ho trovato, era un si bemolle. Ascoltato Opencast Alpha, il podcast tecnologico disimpegnato del GL Como. Tutti i link e le puntate su www.gl-como.it.